Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Signori, questa è la vita, questa è la storia. Oggi vi devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta. Sono giornate morte, senza notizie, senza niente da raccontarvi. C'è molto da discutere, ma c'è un po' di gioia. Eccomi qua, il presidente Trump ha adottato una scelta che riconosce una situazione di fatto. Cari ascoltatori maschietti, fedigrafi, voi diventerete, in altre parole, accusati dai vostri computer automaticamente. Ma c'è bisogno di fare la rima con Lucone Ciccione? Ma veramente, io chiederò subito alla direzione di Confindustria di rimuovere Luca Sappino, Fulvio Benelli, Valerio Rocchetti, Alessandro Capini, Rachele Caracciolo, Lorenzo Rotella per queste infamie contro di me. Il rancore che attraversa il paese. Caro Telese, come ha detto una persona, sembri Hitler uscito da McDonald's. La realtà è sempre oltre la fantasia in Italia. Ecco, questo è il mio commento. Ma vi rendete conto? E basterebbe questo per discutere ore. Ma anche tante altre leggi forse hanno un po' il sapore della fretta. C'è sempre una scintilla. Tuo ospite è pieno di buonsenso e tu sei piacevolmente cicciottello. Ma cos'è un complotto stamattina? E i cani e i gatti, sì! Ce l'hai con me? Il pelato italiano sono io. Io difendo i pelati italiani. Fuori! Fuori da qua! Perché tu che hai i capelli devi avere più successo con le femmine? Questa è la mia domanda. Sono finti! La macchina per suicidarsi. Ed ora che lei è molto interessata. Va bene, allora io le prendo atto, ma non ci credo, va bene. Tutti cerchiamo i nostri genitori nella vita e il senso delle nostre esistenze. Reach out and touch me. È il senso, era il senso di ieri. Qual è quello di oggi? Oggi è il giorno degli addii. Babe, I'm gonna leave you. Mi viene in mente un grande successo delle Zeppelin per questa giornata in cui se ne va Alfano, se ne va Pisa Pia, le porte girevoli della politica si liberano di molti personaggi. Sentite l'arpeggio, sentite, questa è grande melodia. Silenzio, sentite. Babe. Sono livelli altissimi nella storia del rock, della musica, e noi li celebriamo con il più grande irreverente caustico degli opinionisti contemporanei. Mario Giordano, buongiorno, ci sei? Esagerato, buongiorno, buongiorno. Ma qua. Tu ieri, anche da uomo che ha un cuore vicino, quanto hai sofferto pensando che Alfano non si candiderà più? No, sono triste, credo che anche tutto il popolo italiano si era tristi moltissimo per non poter rivedere in Parlamento Alfano, però l'ho sentito ieri sera poi nella sua versione integrale, insomma non si candida più, ma non è che molla proprio del tutto la scena politica, purtroppamente, come direbbe la Colombo. Che interpretazione dai? Ma io do l'interpretazione che dal punto di vista di Alfano, che stava, cioè, ovviamente era andato in un tunnel per cui cercava una mossa per riqualificarsi, visto dal suo punto di vista, la vedo molto con un'operazione di marketing elettorale, marketing politico, cioè faccio un passo indietro per farne poi due avanti, sentendo, se non mi sembrava l'idea di uno che dice abbandono la politica, ma di uno che capiva che questo giro elettorale sarebbe stato per lui molto difficile sostenere il comando elettorale, quindi fa un passo indietro. E lascia alla Lorenzi più tonica, sì, più... esatto, un po' più tonico, però non esserci per un politico è sempre una sconfitta, eh? Sì, non esserci per un politico è sempre una sconfitta, ma ribadisco, sarebbe stato difficile. Alfano è stato il peggior ministro dell'interno dell'Italia, è stato un ministro dell'interno, e basti pensare come ha gestito l'immigrazione, come è cambiato nel momento in cui è arrivato Minniti, con tutte le critiche si possono fare anche a Minniti, però il salto è stato talmente evidente, non è stato un ministro degli esteri inesistente, praticamente cancellato anche qui dalla presenza di altri. Quindi diciamo che dal punto di vista politico non era... il risultato siciliano è la dimostrazione che anche in Sicilia, che era la sua terra, non conta nulla, e quindi ha un partito spaccato, un piccolo partito che è arrivato alla scissione dell'atomo, quindi è molto difficile per lui presentare. Allora partiamo, sentiamo quell'annuncio, poi subito dopo. Io non starò seduto sui banchi del prossimo Parlamento perché ho scelto di non ricandidarmi alle prossime elezioni. E questo è uno scoop. Cioè lei se lei mi giudica così tanto, però certamente questa è la mia decisione, perché ritengo che ci siano dei momenti in cui servano dei gesti. Ecco, stavi dicendo, Mario, perché che lui infatti lo spiega qui dicendo, tutti dicono che io sono un attaccato alle poltrone, devo dare un gesto perché era difficile. Ma il vero significato di questa cosa secondo me non è tanto Alfano, permettimi di dire, in questo è Renzi, perché nello stesso giorno si becca l'abbandono di Alfano e Pisapia. La mia domanda è: con chi la farà la coalizione? Con Pippo, Pluto e Paperino? Allora senti Geppe Cucciari che commenta la defezione di Pisapia. Ci sono delle cose poco note di Giuliano Pisapia che vorrei ripercorrere insieme a te. Allora, ha militato in Democrazia Proletaria, Rifondazione Comunista, Sinistra, Ecologia e Libertà, ANAS, AISCAT, Società Autostrade e con la collaborazione dei gestori AGIP. È stato per 5 anni un apprezzatissimo e amatissimo sindaco di Milano, poi come è noto è stato colpito da una terribile disgrazia, ha fondato Campo Progressista. Quando era sindaco di Milano, ogni sera la moglie Cinzia lo accoglieva a casa preparandogli un cocktail. Una sera gliene ha preparati 4 e lui ha deciso di allearsi con Renzi. E Pisapia, qual è la spiegazione che dai tu? Pisapia però nessuno ha ben capito poi nel giro mondiale che cavolo, io non ho ancora capito che cosa fosse Campo Progressista. Non è riuscito a spiegare che cosa voleva fare con questo Campo Progressista. Se me lo spieghi tu, che sei molto più esperto di me di queste cose, io forse non ho capito dove voleva andare. Voleva fare una gamba alleata del PD di Renzi e ha resistito fino all'ultimo. Poi lui aveva chiesto che ci fosse lo Ius Soli di fronte alla calendarizzazione dello Ius Soli verso l'anno 2000. Sì, arrivata alla calendarizzazione dello Ius Soli avevamo già perso tutto, perché nel momento in cui si candida scende in campo Grasso e lui fa un passo indietro. Lui vuole fare la gamba di sinistra, però nello stesso tempo è molto più vicino a Renzi, è quello che ha votato sì ai referendum, sì, ricordiamolo, e vuole fare però rappresentante della sinistra. Cioè era talmente pieno di ambiguità. Io credo che invece Pisapia volesse fare il Prodi, volesse fare l'uomo di unificazione al di sopra di Renzi, e quando ha capito che non aveva i mezzi per farlo, non c'era lo spazio, hai ragione. Vogliamo alto, Trump su Gerusalemme, si infiamma la diplomazia di tutto il mondo. Che cosa ne pensi? Sentiamo la voce. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. È il tempo di riconoscere ufficialmente Gerusalemme come la capitale. E come l'hai data nel TG? Ma l'ho dato, ho fatto un collegamento ovviamente con il nostro corrispondente di Gerusalemme, ho fatto un titolo perché è una cosa di cui tutti discutono. Mi sembra però che come al solito il carico di odio, di rancore e di pregiudizi nei confronti di Trump impedisca di avere una visione e una visione chiara della cosa. Mi sembra che Trump, come sappiamo tutti, come abbiamo detto tutti, Trump non fa altro che dare seguito a una legge che c'è dal 1995 e non fa altro che dare un annuncio di uno spostamento di un'ambasciata. Io so di dire una cosa in questo momento altamente impopolare, ma se a fronte di uno che dice spostiamo un'ambasciata si sente dire scoppierà l'inferno, Il problema dov'è? Lo spostamento dell'ambasciata o il fatto che solo spostare un'ambasciata provoca bandiere bruciate, rivolte e annuncio che sarà scatenato l'inferno? Allora il problema cos'è? Che fino adesso non ha funzionato quel modello, e quindi cambiare quel modello, uscire dall'ipocrisia di presidenti, compreso Obama, che non hanno abolito la legge del 95 che prevedeva lo spostamento dell'ambasciata, ma hanno semplicemente fatto finta di niente, lasciando una situazione nel com'è adesso, che non è sicuramente di pace. Oppure il problema è Trump, che solleva per la prima volta il velo dell'ipocrisia e fa quello che aveva detto in campagna elettorale. E allora adesso ti riporto in Italia, in mezzo ai fumogeni, volti incappucciati. Forza Nuova ha fatto un sit-in con 15 persone che hanno contestato Repubblica e l'Espresso, invitando a boicottare quel giornale. C'è anche qui un'ondata di sdegno, la prima voce discussa in Italia ieri sui social e su Twitter era Forza Nuova. Queste urla, questi cori, l'accusa al gruppo Espresso Repubblica sarebbe quella di uccidere l'identità degli italiani, ovviamente anche qui con lo Ius Soli. Il tuo commento su questa protesta, perché si va dal Tempo che dice vabbè, che cosa è successo, un paio di fumogeni, ai giornali che dicono è stato un attacco alla democrazia, come la vedi tu? Ma guarda, come già l'episodio di Como, io credo che ci sia, e come già l'episodio di quest'estate del bagnino fascista, io credo che ci sia un'esagerazione pazzesca. A me queste persone, te l'ho già detto l'altra volta, o qui dopo il giorno di Como, mi stanno sulle scale, mi stanno sui maroni, è come un riccio nelle mutande, mi fa lo stesso effetto di queste persone, quindi non ho nessun tipo di cosa. Però diciamoci la verità, erano 10-12 cretini. Allora, sollevare le campane dell'allarme democratico, brutto però che fossero con la maschera, sì, molto brutto. Luca, quante manifestazioni abbiamo visto con rappresentanti dei centri sociali, con i caschi, con i volti scoperti, che non hanno minacciato... ma non ci piacciono neanche quelli. Non ci piacciono queste cose, ma io non ho mai sentito questi allarmi alla democrazia. Non ho mai visto tutti questi allarmi alla democrazia quando vengono spaccate le vetrine dei negozi, quando vengono spaccate le vetrine dei McDonald's, quando vengono spaccati i bancomat, quando vengono picchiati i poliziotti, non minacciati, forse... ieri sentivo... hanno minacciato calci e pugni. Quanti poliziotti abbiamo visto presi a calci e pugni da centri sociali sotto le bandiere rosse senza che nessuno scatenasse l'allarme democratico? Primo. Secondo, in un paese che non va a votare da quattro governi, che andrà a votare probabilmente per un governo che non sarà eletto, perché continuerà molto probabilmente il governo Gentiloni, in un paese dove ieri è stato annunciato che sono 18 milioni a rischio di povertà, il vero in cui la gente non conta più una mazza, il problema democratico esiste, ma il problema democratico non sono 10 cretini, e sollevare il problema di quei 10 cretini dell'onda nera, della marea nera, come problema democratico, e nascondere quello che secondo me è il vero problema democratico oggi. E guarda, avevamo preso Buttafuoco che più o meno dice quello che sostieni tu. Non mi risulta che il quotidiano La Repubblica, che si fa interprete dell'afflato etico, si sia mobilitato per garantire il diritto di Giampaolo Panza di presentare i propri libri e di incontrare il proprio pubblico. Nulla toglie, che aver visto quelle immagini a Como, io l'ho trovato molto inquietante. Però sappiamo perfettamente che anche qui c'è quella volgare speculazione, sono soltanto minchiate. Era Laria Chetira, intervistato alla Merlino, ma si potrebbe fare un lodo, io dico sempre cose banali, che è brutto quando impediscono ed è terrificante quando impediscono, fra l'altro quel giorno c'ero, di parlare a Giampaolo Panza, rompendo sul palco, srotolando uno striscione, togliendo la parola a chi stava parlando, ed è brutto anche l'idea che tu vai incappucciato con i fumogeni e dice a uno sei l'assassino, no, non ti sto criticando, sei l'assassino e l'identità italiana, che non è poco l'accusa a Repubblica, Mario, cioè se uno fosse venuto davanti alla tua redazione a dire Mario Giordano è l'assassino dei diritti civili, io mi sarei mobilitato. No, io non ho sentito mobilitazione, guarda, è successo più volte, è successo non così. così, ma molto più di così. Ripeto, io non faccio non voglio fare esempi personali, non voglio fare vittimismo. Parliamo di Pansa, è successo molto peggio, gli è stato impedito di parlare. Non sono 10 che fanno una manifestazione. Anche recentemente, anche alla Finocchiaro e D'Alema, è stata, non si, dai centri sociali a Napoli, è stata quasi oscurata quella notizia. Salvini a Napoli, voglio dire, succede abitualmente, lo ripeto, con i centri sociali, succede abitualmente, e non è che voglio giustificare, sono 10 cretini, l'ho detto, sono 10 coglioni, 10 disgraziati, 10 farabutti, tutto quello che ho, 10, tutto quello. Senti, che Maria Teresa Meli, senti. Io non la penso come Pietrangelo, non penso che siano solo minchiate, perché se uno esibisce allo stadio Anna Frank, un altro va in giro con i vessilli nazisti, quella del carabiniere era la bandiera del secondo Reich, della prima guerra mondiale, dopodiché viene usata negli stadi dove sono ignoranti, dai fascisti, dai nazisti. Che si vede sempre nei fumetti di Corto Maltese. Ora ragione, però che ha ragione Maria Teresa, non capiscono un pippero, li vedi nei fumetti. Il Lodo Meli che dice però non è un episodio isolato, sono tanti episodi tutti insieme. Ma no, tanti episodi tutti insieme, Luca, li creiamo noi, siamo noi che stiamo, noi intendo come me, giornali che stiamo creando. Abbiamo creato un caso quest'estate sul Bagnino, che dentro il suo stabilimento ci aveva i manifesti. Abbiamo creato un problema con Fiano sugli accendini che inneggiano luce, che ci sono da sempre, e che ma sarà quello il problema? Beh, però l'accendino di Deduce non fa male a nessuno, diciamo, tranne chi lo porta, e la contestazione col fumogeno è un tentativo diverso, anche l'accusa di essere distruttori della patria, della nazione. Quando è iniziato questo in Italia abbiamo avuto problemi. Il problema è capirsi se pensiamo davvero che oggi il pericolo democratico in Italia sia il nostalgici del fascismo, oppure ci sia il problema democratico, ci sia, ma sia altro. Sia altro il problema democratico. Ripeto. Allora ci fermiamo solo un attimo perché ci sono le strade, e poi voglio sentirti sulle banche, in cui ieri c'è stato, come forse sapete, un grande sviluppo. Strade. Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a questo. Mattino. I già svegli. Sono già sveglio perché sono andato a lavorare, buongiorno intanto, e ho sentito adesso il pianto di questa donna e di questa mamma. Io dico solo una cosa, se un'azienda si permette di fare una cosa del genere, questa azienda ha solamente la necessità di perdere tutti i clienti. Sono Stefano, 32 anni, faccio il padroncino e sono già sveglio dalle 4:15. Io sono Elisabetta, sono già sveglia perché mi alzo la mattina per preparare pranzo per mio figlio che va al lavoro, e vengo fuori in terrazza a guardare la superluna sulle montagne. È meraviglioso, vale la pena. Ti volevo salutare e ti volevo dire che oggi torno al lavoro dopo 5 giorni di malattia con un fibrone da cavallo. Ringrazio Dio di averla scampata, perché non era solita influenza, e comunque mi chiedo sempre di più perché noi a quest'età, ormai a 60 anni, dopo 36 anni di lavoro, dobbiamo andare al lavoro. Diamo posto ai giovani, diamo posto ai giovani. Bellissima l'Italia dei già svegli, gli echi di quello che vi abbiamo raccontato. Mario, che impressione ti hanno fatto le lacrime che hanno stupito e turbato i nostri ascoltatori, le lacrime di quella donna dell'IKEA, Marika, licenziata col figlio disabile, lei non è andata al lavoro, è stata una storiaccia, vero? Sì, è stata una storiaccia che appunto rappresenta bene il dramma di tantissimi lavoratori. Ieri sera io ho mandato in onda delle altre lacrime, visto che prima citavi una banca, che anche queste molto commoventi, di una donna che è stata buttata fuori di casa, che sta morendo, malata terminale, che è stata buttata fuori di casa, la sua casa è stata messa all'asta per un debito con la banca, che fra l'altro non l'aveva pagato un'assicurazione, quindi una vicenda in cui lei ha avuto avuto un infortunio, è stata buttata fuori di casa, la sua casa messa all'asta e sarà buttata fuori di casa nei prossimi giorni, malata terminale. Sono le lacrime di un paese, ripeto, che ha gravi problemi, molto più degli accendini di Mussolini. Ci ha beccato De Rita, il tempo della ferocia. Ricordiamo Johnny Hallyday con questa canzone, ribelle del rock francese, una bella faccia da schiaffi, si direbbe, ci ha lasciato e ogni volta che se ne va una diversità ci dispiace. Allora, Mario, proprio perché sei entrato in Tre Banche, senti Di Battista, la battaglia di queste ore, di questi giorni, sull'audizione Ghizzoni, testimone chiave della polemica fra De Bortoli e La Boschi. Senti Di Battista. L'unico modo che ha questa commissione di salvare la faccia il presidente Casini, di non dimostrarsi un osceno fiancheggiatore del renzismo, appunto, è convocare Ghizzoni. Questa altrimenti non è più una commissione d'inchiesta sulle banche, ma una commissione d'inchiesta per salvare la Boschi. In un paese normale Ghizzoni già sarebbe stato audito. E Orfini spiega perché il PD non voleva sentire Ghizzoni. Audire Ghizzoni in base a una rivelazione presunta fatta da un giornalista, sto dicendo, sono uno che non ha posto veti, quindi figuriamoci, ma quello di cui si parla, ammesso non concesso che sia vero, semplicemente non si è verificato, non ha avuto alcun effetto sull'esito di quella crisi bancaria, cioè Unicredit non si è occupata, non si è comprata, Etruria non è intervenuta, quindi parliamo di una cosa che non ha avuto alcun effetto concreto. E poi alla fine il colpo di scena, perché Ghizzoni viene audito e ne parla Maria Elena stessa a Porta a Porta. Tanto la banca Etruria ovviamente non era la banca di mio padre, il numero di azioni che complessivamente la mia famiglia deteneva aveva un valore di 10.000 euro complessivamente, poi azzerato ovviamente con la risoluzione delle banche. Quello che l'ex direttore De Bortoli riporta nel suo libro non è vero, ed è questo il motivo per cui io mi sono decisa dopo molti mesi a agire in giudizio per tutelare il mio nome, per tutelare la mia reputazione. Io non avrei voluto farlo, eh. E l'hai sentita nel complesso? Sì, dopo 7 mesi, dopo che non c'erano più termini per fare la denuncia penale, ma solo quella civile, che quindi andrà alle calende greche. Va bene, vedremo però che cosa è vero e che cosa non è vero. Vedremo se è vero o no che un ministro, un sottosegretario, un esponente importante del governo si è impegnata attivamente per la banca di cui suo padre era vicepresidente, di cui adesso abbiamo scoperto che non c'entra banca Etruria, non c'entra niente con Boschi, di cui papà era solo vicepresidente. Cercheremo di scoprire se è vero o no che è stato organizzato a casa Boschi un incontro per la risoluzione di quel problema con Veneto Banca, come è stato scritto. Io credo che questa commissione, che è partita molto tardi, troppo tardi, colpevolmente tardi, non porterà nessun beneficio purtroppo ai risparmiatori, non porterà nessuna luce nel dramma dei risparmiatori, però forse, contrariamente a quello che si voleva, sta diventando un'arma a doppio taglio, perché l'infelice audizione dell'altro giorno del magistrato Rossi e adesso l'audizione di Ghizzoni forse possono smontare un po' il castello che si voleva creare per creare una commissione per dire: è tutta colpa di Banca Italia, noi non c'entriamo niente, noi non abbiamo fatto, anzi noi siamo i difensori dei risparmiatori, che mi sembra un po', ripeto, dire Renzi e il PD di questi anni difensori dei risparmiatori sarebbe come dire che io sono un tenore alla Scala, ecco, cioè voglio dire, cioè è una roba incredibile, non ci può credere nessuno. Allora, senti, per fare un break, la rabbia di Sarri, il Napoli ieri purtroppo è stato eliminato dalla Champions, era partito tutto bene, un gol in apertura di Zielinski ci aveva fatto sognare, poi il ribaltamento, ha perso 2-1, in conferenza stampa l'ha preso un po' maluccio. Cosa dice dopo queste 4 sconfitte, 0 punti in trasferta, a se stesso, alla squadra e anche al presidente De Laurentiis? Prossimo anno risparmiami un po' di telefonate a De Laurentiis, chiamo direttamente te per gli obiettivi stagionali e non fai domande. Mister, di però una, no, mister, la prego di avere, può negarlo, quindi, ma io non credo. Quindi Benfica, perché ha vinto la Champions di 67, la deve vincere anche quest'anno. Ma che sta dicendo? Sono troppo intelligente per credere questa cosa. Insomma, no, io sono troppo intelligente per continuare ad ascoltarti. Quando il Bip si arrabbia abbiamo sempre un brivido di, come dire, un po' di soddisfazione, però mi piace Sarri perché non le manda a dire, no? No, Sarri in questo è grandioso, il genere è che però ormai c'è anche fammi spezzare, io non sono mai difensore della categoria, però ormai è diventato anche difficile spesso fare le domande, perché qualsiasi domanda si faccia ti prendi un baffa. Alla fine hai perso male. Non mi sembrava una domanda così sgarbata quella del giorno, quindi con tutto l'aspetto, la simpatia e la stima per Sarri, che tengo un grandissimo allenatore, se ho tifato Napoli finché ho potuto, finché loro stessi non hanno mollato, ma più che altro per le notizie che arrivavano dall'Ucraina più che per i loro me, quindi sono poi crollati, si è visto un calo di motivazioni evidente. Però detto tutto questo, se adesso non è più possibile neanche fare una domanda su quali sono gli obiettivi, che il VIP si incazza, e allora sei allenatore anche per rispondere a queste domande. È naturale che ti faccia questa domanda. Vabbè, abbiamo sempre due opinioni su tutto, ma questo è il bello. Grazie a Mario Giordano, Giornale Radio, e torniamo con la rassegna stampa.